è un'ordinanza di una sessantina di pagine, sono le motivazioni, in realtà la revoca degli arresti, diciamo, ne siamo a conoscenza già dagli inizi di agosto, ma vengono dettagliati i motivi per cui sono stati revocati in particolare i domiciliari a 6 sindacalisti di Sicobas e USB Piacenza, ma anche ci sono anche un paio di leader nazionali. In buona sostanza i giudici del riesame di Bologna smontano quello che era l'impianto della procura di Piacenza rispetto al reato chiave di questa inchiesta, cioè l'associazione a delinquere. Il fatto che dentro i due sindacati di base si fossero innestate ai loro vertici due diverse e distinte associazioni a delinquere in competizione fra loro, quindi non che agivano in maniera unitaria ma agivano in contrasto fra loro per accaparrarsi tessere iscritti fra i lavoratori, in particolare diciamo i facchini della logistica. Il riesame parla di confusione, cito testualmente, fatta dagli inquirenti di Piacenza fra quella che è un'associazione a delinquere e quella che è un'associazione sindacale, un'organizzazione sindacale, nel senso che nel momento in cui, secondo la procura, l'associazione delinquere è fatta dal coordinatore nazionale del SICOBAS, dal coordinatore provinciale di Piacenza del SICOBAS e da due membri del coordinamento provinciale sempre di Piacenza dello stesso sindacato, e che gli obiettivi sono quelli, per esempio, appunto di aumentare le tessere fra i lavoratori o di migliorare alcune condizioni lavorative nei siti, di strappare conciliazioni, TFR o buone uscite più elevate per i propri iscritti, di fatto il riesame dice che differenza c'è fra quello che deve fare normalmente un sindacato. E quindi questo è il motivo chiave per cui sono venute meno le esigenze cautelari, almeno secondo i giudici del Tribunale della Libertà. Dopodiché dentro l'ordinanza si trovano una serie di dettagli molto interessanti relativi alle singole contestazioni. L'inchiesta è per associazione a delinquere e decine di altri capi di imputazione, peraltro su decine di indagati, oltre ai sindacalisti di cui abbiamo parlato, e si trovano nel concreto alcuni elementi che rimettono completamente in discussione come è stata venduta soprattutto a livello mediatico quell'indagine. Faccio un solo esempio. In conferenza stampa la procura di Piacenza il 19 luglio, il giorno degli arresti, aveva parlato di arricchimenti personali da parte dei sindacalisti, pur senza effettivamente mai contestare alcun reato che riguardasse denaro, soldi, appropriazione di denaro o tornaconti personali, nel senso che non c'erano questi capi di imputazione nelle carte, però c'erano alcuni riferimenti, per esempio al fatto che uno dei leader dei Cobas piacentini, Mohamed Arafat, avesse portato a casa per se stesso 100.000 euro di buona uscita dalle Leroy Merlin durante una vertenza sindacale, mentre gli altri facchini avevano portato a casa 25.000 euro. Uno non è vero, nel senso che gli altri facchini hanno portato a casa chi 25, chi 40, chi 50.000 euro, e quindi, come dire, in base all'anzianità, in base a una serie di condizioni soggettive, ma soprattutto Mohamed Arafat non ha portato a casa 100.000 euro perché ha ricattato l'azienda, ma perché ha transato con l'azienda rinunciando, per esempio, alle differenze retributive che gli dovevano. Quindi gli dovevano dare dei soldi e ha portato a casa dei soldi. Viene tutto un attimino temperato rispetto a quello che era sembrato in particolare in conferenza stampa a luglio. In queste motivazioni si sparla anche della controparte, diciamo così, degli imprenditori. Sì, perché l'indagine, intanto in alcuni suoi passaggi, l'indagine è estremamente articolata e riguarda 7 anni di tempo all'incirca, e in alcuni suoi passaggi nasce da testimonianze degli imprenditori, denunce presentate dagli imprenditori o, come dire, sentiti a sommario informazioni dalla polizia giudiziaria, e sono decine di imprenditori della logistica che parlano del loro rapporto con questi sindacati di base. Fra di loro ci sono alcuni criminali, nel senso che hanno dei precedenti penali specifici, faccio il nome di due: uno è Bolondi del consorzio Premium Net, molto noto anche in Lombardia per una serie di vicende giudiziarie che lo hanno riguardato. È stato molto curioso per esempio il fatto che nelle carte fosse citato Giovanni Attanasio, uno dei grossi provider di servizi della logistica nel nord Italia, a Piacenza, anche se lui è salernitano, e che 10 giorni dopo l'indagine di Piacenza si è visto sequestrare 12,5 milioni di euro dalla Guardia di Finanza e dalla Procura di Vicenza per un'altra indagine. Quindi insomma di questo tenore stiamo parlando. In particolare il Tribunale del Riesame si concentra su una testimonianza a un certo punto, che è quella dell'allora amministratore delegato di IKEA Italia Distribution, Andrea Colzani, e fanno un ragionamento che è quello che farebbero tutte le persone, cioè: l'imprenditore che parla del sindacato che gli ha dato fastidio dentro la sua azienda non è super partes, non è imparziale in quello che dice, ha degli interessi in gioco, ovviamente, anche naturali. E il riesame prende atto di questa cosa e dice, insomma, mi si consenta, scrivono a un certo punto i giudici, non parliamo di persone disinteressate. E in effetti quella testimonianza era piuttosto curiosa, sembrava immaginare forme di ricatto, forme di estorsione, pur senza mai parlare di soldi effettivamente, però viene anche in questo caso un attimino ricontestualizzato quell'impianto. tanto, ecco. Ti faccio un'ultima domanda che riguarda invece una riflessione, perché non è l'unica inchiesta quella di Piacenza di questo tipo che poi finisce nel niente. A cosa dobbiamo secondo te questo tipo di inchieste? Ma secondo me i moventi sono diversi, non so come dire, le motivazioni che portano determinate indagini, non mi sono ancora fatto per esempio un'idea specifica sul perché si sia deciso di mettere nel caso specifico di Piacenza così tanta carne al fuoco, cose che sono avvenute 7 anni fa, cose che sono già andate in prescrizione, cose che sono oggetto di altri procedimenti penali specifici. Diciamo che i sindacati di base in alcune zone d'Italia, nel settore della logistica in particolare, ma non soltanto, grande distribuzione, anche nei servizi in appalto, per alberghi, hotel, per altri, nell'agricoltura, hanno svelato in questi ultimi 10 anni quello che sapevamo, però poi vederlo nero su bianco o comunque vederlo in maniera concreta è molto differente. Lavoro nero, caporalato, anche al nord, ci sono una serie di casi in Veneto, potremmo citare, tutta quella, come posso dire, coltre nascosta sotto il tappeto di un certo tipo di sistemi industriali in Italia. Questa cosa ovviamente, come dire, può dare fastidio ed è comprensibile, e che ci sia un certo tipo di accanimento in alcuni distretti industriali in cui economia, politica, industria, relazioni industriali sono cose molto vicine, anche perché comunque parliamo della provincia italiana dove tutti ci si conosce, dove le relazioni magari affondano già da 15 anni e sono conflittuali da 15 anni per motivi anche differenti da quelli specifici di questa indagine. Potrebbe essere un attimino il sostrato su cui un'indagine di questo genere si è creata. Dopodiché, quali siano il motivo specifico per cui la procura di Piacenza e il questore di Piacenza abbiano tecnicamente mentito, perché hanno mentito in alcune cose che sono state scritte nelle carte, in alcune cose che sono state dette in conferenza stampa, come dire, forse posso anche avere un'opinione, ma non è il caso di dirla pubblicamente, ecco.